ridatemi gli anelli, i quadri, i miei gioielli, persi per un inchino, affondati nel veleno. Dovevo immaginarlo, i risparmi di una vita, buttati nella stiva di una squallida crociera. Io con la mia bambina, nel fango con la mia sfortuna. Io volevo le onde del mare, ho trovato solo schiuma. Chi potrà ridarmi il sorriso, quello che mi è stato rubato? Chi potrà restituirmi il futuro che mi è stato negato? Quanti inferni sembrano paradiso, quanti occhi chinano il capo, quante spighe saranno falciate, quante vite bruciate, quante vite saranno bruciate. Hanno salvato una Madonna, una statua di cera dipinta, ma sulle bare dei morti resta una macabra onta. Doveva essere una crociera, invece è stato un inferno. Quando l'acqua arriva alla gola, ognuno pensa solo alla propria galera. Io con la mia bambina, nel fango con la mia sfortuna. Io volevo le onde del mare, ma ho trovato solo schiuma. Chi potrà ridarmi il sorriso, quello che mi è stato rubato? Chi potrà restituirmi il futuro che mi è stato negato? Quanti inferni sembrano paradiso, quanti occhi chinano il capo, quante spighe saranno falciate, quante vite bruciate, quante vite saranno bruciate.